Sì, abbiamo deciso di costruire una nuova squadra, invitando tutti i giocatori, ma anche i tifosi, a sottoscrivere un codice etico secondo il quale la legalità è il principio cardine, il calcio pulito è il principio cardine della squadra. Tutti i giocatori sono stati contrattualizzati, tutti i giocatori pagheranno le tasse per quelle che sono legittimamente dovute, quindi non ci saranno pagamenti a nero, pagamenti sotto il banco, eccetera. I tifosi sono stati, diciamo, obbligati in qualche modo a non fare cori contro gli avversari, ma soltanto a favore dei propri associati. Gli imprenditori sono stati selezionati, quelli a cui abbiamo chiesto la sponsorizzazione, per evitare di ritrovarci nella compagine degli sponsor, diciamo, imprenditori collusi o coinvolti col vecchio regime.